Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi, buongiorno. Questo è un saluto, ma è soprattutto un augurio. Che questa per ciascuno di noi sia una buona giornata. Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità perché lo sia. E possiamo farcela, dobbiamo farlo e possiamo attrezzarci per prendere il passo e vivere questa nuova quotidianità che è un po' difficile, ci sta un po' stretta, per renderla quanto più vicina al concetto di salute che, come sappiamo, l'OMS definisce come lo stato di benessere fisico, mentale e relazionale. A proposito di salute, scriveva Schopenhauer, la salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. E ancora oggi questa frase è doppiamente vera, perché ciascuno di noi, nel proteggere la propria salute, parlo di salute fisica e salute mentale, protegge quella altrui. Allora, credo che a questo punto del nostro percorso possa farci bene riflettere proprio su questo aspetto e soprattutto capire che cosa possiamo fare per superare la sfida che questo momento impone, e cioè rimanere a casa ma rimanere in equilibrio, o ritrovarlo o reinventarne uno nuovo. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alberto Pellai, medico ricercatore all'università, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che ci aiuta, ci dà una mano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, in tempi di coronavirus tutte le nostre vite sono in una condizione di squilibrio, l'esatto contrario di ciò che invece dovrebbe essere la salute, che, così come viene definita da OMS, è una condizione di equilibrio di più dimensioni della nostra vita. E oggi vorrei con te parlare proprio di questo, e anche naturalmente con gli amici che possono intervenire scrivendo messaggi, mandando vocali al 349-238-6666. Come rimettere equilibrio in una situazione in cui tutto è un po' per aria, Alberto? Eh sì, è proprio così. Se voi ci pensate bene, spesso la salute è raccontata proprio come un triangolo equilatero, tre lati, tre dimensioni, corpo, mente, relazioni, e noi pensiamo che questi tre lati siano praticamente equivalenti, no? Debbano ognuno contribuire a suo modo. Invece, come hai detto tu, noi dobbiamo costruire un equilibrio. Questa è una situazione molto particolare, molto speciale, dove le tre dimensioni non sono in equilibrio in nessun modo. I lati sono proprio quelli di un triangolo scaleno, lo dovremmo definire proprio in modo geometrico così, hanno lunghezze diverse e ci troviamo molto compressi su tutte e tre le dimensioni. Quindi la domanda chiave per noi è proprio questa, cioè qual è la zona della vita che in questo momento sento maggiormente squilibrata, e quindi quali sono quelle azioni che devo fare per rimetterla in equilibrio. Ma l'altra domanda che ci dobbiamo fare invece è quali sono i miei punti di forza, cioè potremmo un po' intenderla con il concetto di salute residua, che è molto molto importante, cioè dove io trovo le mie risorse, qual è la mia area di resilienza, perché lì c'è probabilmente un terreno, proprio un territorio che va sostenuto, che va coltivato e all'interno del quale probabilmente trovo poi la forza e l'energia proprio per rimettermi in equilibrio. Quella che io chiamo la cassetta degli attrezzi. Eh sì, esatto, e ognuno ha la ciascuno sua, di noi ne ha una. Assolutamente sì, e quindi è proprio un po' l'idea di aprire quella cassetta degli attrezzi. Noi sappiamo, no, quello che ci fa bene. Adesso penso per esempio a delle persone che effettivamente in questo momento stanno faticando, cioè chi era abituato a un'intensa attività fisica e quindi intorno a quell'attività aveva costruito un po' il suo equilibrio di benessere. Tra l'altro sappiamo proprio che l'attività fisica produce anche endorfine, che sono fondamentalmente delle sostanze endogene che ci danno una sensazione di piacere e rilassatezza, in qualche modo ci rendono un po' dipendenti dall'attività fisica. In questi giorni abbiamo sentito tantissime polemiche fatte intorno al fatto che i runner reclamavano un po' il diritto a stare… Eh sì, perché Alberto, il movimento fisico manca anche a livello mentale, mi sembra, da quello che tu, esatto, anche sottolinei. Infatti, no? Ci sono anche le neuroscienze proprio che lo dimostrano. Esatto, bisogna proprio partire dal fatto che poi la nostra mente ha dei bisogni e quei bisogni non possono non essere sentiti. Ora, la reazione che moltissimi hanno avuto, no, di attacco diretto ai runner, cosa state chiedendo? Secondo me dobbiamo, per esempio noi, per generare un equilibrio anche nel nostro contesto sociale, entrare proprio alle esigenze profonde per cui una persona fa delle richieste, quindi dire, per esempio, togliere l'aggressività. Ci sono state frasi terribili, attacchi frontali, un po' questa cosa poi di trasportare tutto. E credo che poi molti di loro abbiano cercato di organizzarsi in altro modo, cioè probabilmente hanno trovato. Ecco, e come fare, modo. Alberto, per non essere proprio travolti da questa mancanza? Oggi diamo anche proprio delle istruzioni, dei suggerimenti, individuando magari dei profili. Tu hai parlato, hai aperto con gli sportivi. Che cosa si può fare proprio per evitare questa mancanza? Aggiunga squilibrio. Guarda, io credo da un punto di vista psicologico dobbiamo veramente un po' imparare a shiftare il nostro pensiero, cioè può essere che in questo momento quello che ci sta succedendo è un costante rimuginio intorno a tutto quello che non abbiamo, che non possiamo fare, che spesso mette dentro anche emozioni piene di rabbia oppure una sensazione di frustrazione e di impotenza. Ecco, questo è un po' l'immagine, quella del criceto, no? Che continua a muoversi in una gabbia senza andare poi da nessuna parte. Questo genere di permanenza costante in un pensiero che non ci porta da nessuna parte è probabilmente la prima cosa che dobbiamo bloccare e spostarci in un territorio che è invece quello che possiamo imparare a fare, dobbiamo imparare a fare, siamo nelle condizioni di poter fare. A chi per esempio soffre così tanto perché il corpo non può essere così attivo ma è stato fermato, io proverei a dire, per paradosso, provate in questa immobilità del corpo a rigenerare una sensazione di benessere proprio dentro il vostro corpo, e quindi per esempio provate a organizzarvi una sessione di rilassamento corporeo e quindi rifate partire la sensazione di benessere da un corpo che sta soffrendo perché non lo potete muovere, e provate proprio a cercare un tutorial oppure una descrizione. Andate sulle pagine di Obiettivo Salute, Alberto, perché noi abbiamo, anche tu naturalmente ci dai una mano, ogni giorno abbiamo tanti contributi dagli esercizi di meditazione di Daniel Lumera. La meditazione ci aiuta a rimanere in equilibrio, ma anche a proprio esercizi, dalla coreografia di Beatrice Carbone, solista del Teatro alla Scala, esercizi mirati di Viviana Ghizzardi. Quindi cerchiamo di costruire i consigli per il benessere emotivo di Alberto. Abbiamo una sorta di palestra, ecco, in cui noi, che ci invita a tirare fuori gli attrezzi di questa famosa cassetta degli attrezzi. Alberto, abbiamo parlato degli sportivi, ma i bambini sono in molti casi in difficoltà. Proprio la scorsa fine settimana un gruppo di esperti di età evolutiva ha suggerito di dare un'ora d'aria ai piccoli, e tu ne hai parlato anche in un bellissima intervista al Corriere della Sera. Che cosa in questa fatica è meglio attenzionare? Che cosa conviene fare con i bambini per aiutarli a non soffrire troppo di reclusioni e restrizioni? Ma da una parte credo che sia importante in questo momento come genitori osservare qual è stata poi la loro modalità di adattamento a questo cambiamento così drastico e radicale del loro stile di vita. Può esserci, sono tre casi: i bambini fondamentalmente si sono adattati abbastanza bene, quindi mettono in gioco una resilienza che è a loro misura, ma noi vediamo che sono centrati, sono sul pezzo, quindi direi di continuare un po' con quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ci sono invece altri due casi che sono o bambini che stanno proprio un po' esplodendo, cioè nel momento in cui sono stati confinati si comportano proprio un po' come il vapore dentro una pentola a pressione, quando la pressione aumenta troppo e quindi continua a sbuffare dalla valvola. Ecco, questi sono bambini che probabilmente vanno proprio presi un po' per mano attraverso tecniche come il rilassamento, l'immaginazione guidata, oppure vanno invitati a fare un'attività come mezz'ora di danza proprio scatenata, cioè qualcosa che in modo un po' primordiale, no? Anche un po' selvaggio, certo, ma molto molto fisico, porta a scaricare. E se noi ci mettiamo a fare, no, questa attività con loro, per esempio, è proprio un decongestionante incredibile, vedremo che probabilmente si sintonizza con il loro bisogno di scaricare un'energia fisica che è stata accumulata troppo. Poi possiamo avere invece i bambini che sul lato opposto sono un po' entrati in una deriva depressiva, cioè li vediamo parecchio apatici, abulici, si muovono dal divano alla loro stanza, ma con un forte calo di motivazione. Allora con loro dobbiamo effettivamente essere stimolanti ed essere nutrienti. Una cosa che può essere molto utile, noi l'abbiamo vista in casa nostra, è scegliere per esempio una serie televisiva a disposizione on demand o nel nostro computer o in TV, di quelle particolarmente divertenti, dove ci sono bambini che fanno cose molto, molto divertenti, da Tre nipoti, un maggiordomo, Pippi Calzelunghe, a Modern Family, che è una serie invece dove si ride tanto, e per esempio tenere durante la giornata uno o due momenti fissi in cui noi ci guardiamo altri bambini che ci fanno tanto ridere, e questo è risate in famiglia. Esatto, mi piace, una terapia del mi buon piace. Umore, un rituale affettivo. Senti Alberto, anche per chi non ha bambini, questa mi sembra una bellissima idea, Sì, io credo anche per che... chi non ha bambini. Sì, assolutamente. Allora, noi dobbiamo fermarci per dare le informazioni sul traffico. Abbiamo parlato di bambini, parliamo anche di adulti, lavorare a casa. Molti sono in smart working, ma anche questo presuppone una nuova organizzazione, quindi fare ordine, trovare spazio, darsi dei tempi, delle priorità. E non è facile, perché a volte si ha l'impressione di non smettere mai, a volte di non avere concluso nulla, e questo genera frustrazione, insoddisfazione. Ma, come si dice, individuato il problema, possiamo provare a cercare la soluzione. Ci aiuta tra poco Filippo Ongaro, che saluto perché è già in linea con noi. Lo sappiamo, Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, coach, autore di numerosi libri. Ciao Filippo. Ciao Nico, buongiorno a tutti. Allora Filippo, noi siamo pronti, c'è anche Alberto Pellai, subito dopo le informazioni sul traffico, consigli, a tra poco. Obiettivo salute. Io resto a casa e lavoro. Introduco così il tuo intervento, Filippo, con questo hashtag. Indicazione per non perdersi, per restare in equilibrio. Ma sai, Nicoletta, io credo che questa sia ovviamente una situazione problematica, ma come tutti i problemi rappresenta anche una grande opportunità. E nello specifico, per quello che riguarda il lavoro, rappresenta l'opportunità di imparare ad organizzarsi meglio, a focalizzarsi un pochino di più sui propri obiettivi, e soprattutto, dovendo lavorare da casa, credo che sia molto importante non entrare in una situazione di non far invadere la propria giornata da questa situazione di incertezza anche sul piano dell'organizzazione, perché è una situazione stressante, ma sappiamo anche che lo stress esercita un effetto più o meno negativo sulla psiche e sull'organismo umano in funzione di quanto sentiamo di avere controllo su quella situazione o no. Questa è anche la grande differenza, per cui uno stress scelto è molto diverso da uno stress subito. Qui chiaramente stiamo subendo, allora dobbiamo lavorare su noi stessi per darci una sensazione di scelta pur nel contesto di una situazione che stiamo subendo. Questo lo possiamo fare nell'organizzare la nostra giornata, quindi per esempio nell'utilizzare i blocchi di lavoro, quindi scegliere degli orari specifici in cui fare, non cadere nella trappola c'è tutto il giorno davanti, no, quindi non dobbiamo organizzare niente perché tanto il tempo c'è. No, cominciamo a organizzarlo, scegliendo anche eventualmente i momenti in cui fermarsi dal lavoro, per non correre nemmeno il rischio di passare l'intera giornata poi al computer, finendo col lavorare ancora di più di prima. Un'altra cosa che richiede una grande organizzazione in questo momento è ovviamente la gestione degli spazi, soprattutto in chi si trova a vivere in case magari non grandi con i figli e si trova anche a dover lavorare, situazione assolutamente nuova e complessa. Però tutto parte da una pianificazione che secondo me dobbiamo imparare a fare. Generalmente non facciamo, ci lamentiamo sempre di non avere abbastanza tempo. Adesso il tempo c'è anche per organizzarsi e dobbiamo provare a farlo in maniera nuova e diversa. Quindi facciamo proprio un piano della giornata, dalle alle alle alle, faccio questo, giusto? Ho capito bene? Esatto, e inserendo dentro come dovrebbe essere in una giornata ideale sia le componenti lavorative che quelle legate al recupero. È un'occasione fantastica per inserire dentro alla nostra giornata qualche momento per il rilassamento, magari imparare appunto a meditare, come stavate dicendo voi prima, la scrittura del diario, il puro divertimento. Ma quello che io suggerisco, avendo anche lavorato appunto con persone che si muovono in ambienti estremi come gli astronauti, i militari, è proprio quello di lavorare sul senso di controllo che uno ha sulla propria giornata, perché la vaghezza e avere la sensazione che stai, quella sensazione in cui non sai nemmeno se stai perdendo tempo facendo qualcosa di utile, no? Che è una cosa brutta, certo, perché non ti rendi poi più conto del tuo livello di efficacia, se ci sei con la testa oppure no. Ecco, credo che questo parta proprio da una riorganizzazione delle ore proprio. Senti, Filippo, tu hai lavorato per tanto tempo con gli astronauti e credo che siano un ottimo modello da cui noi possiamo prendere spunto per imparare a vivere in equilibrio, per l'appunto, questa è la parola chiave di oggi, questo periodo di isolamento che siamo chiamati a rispettare. Filippo, questa è anche una missione, per cui per certi versi noi siamo un po' come degli astronauti. Forse sto esagerando, mi sono un po' allargata, ma Filippo, in fondo è anche un po' così. No, è molto così, però ci sono, diciamo, delle grandi similitudini, ma anche delle grandi differenze. E la prima grande differenza è che l'astronauta ha un senso di scopo molto forte per la propria missione. Noi dobbiamo cercare quel senso di scopo anche a costo di chiederci che significato ha questa esperienza negativa nella nostra vita e che cosa possiamo imparare da questa. Poi c'è un'altra grande differenza, che è l'astronauta ovviamente preparato da anni per affrontare l'isolamento, la lontananza da casa, certo, eccetera, mentre a noi è successo tutto molto in fretta e questo chiaramente la rende più difficile. La terza differenza, che è quella su cui insisto di più però, è che l'astronauta ha una giornata estremamente organizzata, addirittura in maniera quasi esagerata, nel senso che diciamo, l'agenda giornaliera dell'astronauta è dettagliata ai pochi minuti al secondo, ecco. Però noi possiamo utilizzare questa organizzazione. Filippo, grazie, ricordo il metodo Ongaro, grazie per essere stato con noi. Ci regali qualcosa per Facebook? Sì, volentieri, se posso inserire qualche consiglio anch'io, più che volentieri. Vai, ti aspettiamo in questa sorta di piazzetta. Alberto, grazie per essere stato con noi. Un messaggio conclusivo di questa nostra lezione? Ma direi che alla luce anche di quello che ci ha detto il dottor Ongaro è: diamo una struttura alla nostra giornata in modo che abbiamo fasce orarie con obiettivi chiari e motivazione perciò molto più sostenuta, e occupiamoci di alternare la dimensione del dovere con la dimensione del piacere, e lì dentro probabilmente costruiremo l'equilibrio che ci è necessario. Quindi equilibrio, e vuol dire quindi per rimetterci sempre più vicini al concetto di salute che comprende l'equilibrio delle tre dimensioni, fisica, mentale e relazionale. Ma a proposito di salute, questa è la domanda di oggi: dopo quanto tempo chi ha presentato una perdita di gusto e olfatto, che è uno dei sintomi che viene descritto in caso di Covid, torna a sentire odori e sapori? Bene, in linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Giovanni Di Perri, che è responsabile delle malattie infettive alla Medeo di Savoia di Torino. Professore, che bello sentirla, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professore, intanto come sta andando la situazione in Piemonte? Ci faccia un'istantanea. Ma guardi, abbiamo avuto 500 casi nuovi al giorno, 500-600, ieri 400, vediamo se è l'inizio di un cedimento. Si sta, diciamo, il Piemonte mi sembra abbastanza diligente nell'osservare queste norme restrittive. Non ci sono molte cose da dire, in Piemonte non c'è una strategia, diciamo, del tipo del Veneto, c'è un discorso, diciamo, abbiamo una probabilmente, diciamo, molte più infezioni di quelle che evidentemente sono state censite, però è anche vero che hanno fatto quello che hanno fatto. Però dai, un lieve calo. Intanto voglio leggervi un'agenzia, e ringrazio naturalmente Alessandro Marco Tulli che me la segnala. Abbiamo fatto in 10 giorni ciò che in maniera ordinaria si fa in qualche anno, pensate, lo ha detto il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzalli alla conferenza stampa per l'inaugurazione del nuovo ospedale centro di terapia intensiva Fiera Milano, realizzato in 10 giorni per l'emergenza coronavirus. Professore, beh, questa è una notizia che no, ci rincuora. Devo e ci rende fieri piano, a proposito. Cioè, mi è sembrato che le migliori prestazioni dal punto di vista operativo sono state quelle sul piano proprio logistico, cioè la capacità nel breve tempo di trovare risorse da dedicare evidentemente ai pazienti più gravi. Questo sia in Lombardia che in Piemonte ho visto degli sforzi e dei risultati che sono molto molto lodevoli. Ecco. Adesso però poi bisognerà lavorare sul territorio anche in vista di una ripresa. Professore, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Torniamo alla domanda. La perdita di gusto e olfatto può anticipare i sintomi classici, quelli che abbiamo imparato a conoscere, del Covid, o presentarsi durante il decorso della malattia? Sì. Perché improvvisamente non si riescono più a sentire odori e sapori e poi che cosa fare? Dopo quanto tempo ragionevolmente posso riprendere a sentire odori e profumi? Sì. E gusto? Ma insomma, indubbiamente questa è una delle curiosità di questa malattia, del modo di essere clinico di questa infezione. Non c'eravamo abituati, anche se per carità la perdita di olfatto e gusto fa parte delle infezioni virali acute, anche se di solito è un qualcosa che sfugge ed è presente per breve tempo. Qui sembra effettivamente anche caratteristica. Quando, mi scusi professore, la interrompo, sì. Quando abbiamo un raffreddore, ad esempio, mal di gola. Sì, certo. Certo, ecco, certo. Avvertiamo, infatti, no? Che esatto, i gusti non sono in questo, esatto, è un'infiammazione, diciamo, delle nostre mucose. Ora, sì. Il fatto che in questa, nel Covid-19, possa avere tempi diversi, ma soprattutto sembra durare un po' più a lungo, probabilmente è dovuto al fatto che vengono coinvolte e muoiono probabilmente quelle cellule recettoriali che convogliano lo stimolo, gusto e olfatto, separatamente evidentemente, al sistema nervoso centrale. Ora, questi recettori. Però, professore, si ritorna. Sì. Dopo qua, cosa devo. Mi dia un consiglio, una cosa da fare o da evitare che devo salutarla? Guardi, da 30 a 60 giorni è il turnover, cioè il rimpiazzo di queste cellule. Per cui, molto verosimilmente, il più sfortunato recupera gusto e olfatto in 2 mesi. Di solito molto prima, i miei pazienti mediamente molto prima. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, ma grazie, ci sentiamo prestissimo. Ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Vi invito a seguire le indicazioni e i consigli degli esperti sulla pagina di Obiettivo Salute. Oggi vi consiglio la meditazione di Daniel Lumera, proprio per restare in equilibrio. Buona giornata da Nicoletta.